WhatsApp autoalimenta il dibattito, si autoalimenta, nel senso che diciamo che poi genera un dibattito di solito di un buon livello che ci serve, prima di tutto serve a noi e serve a chi legge JAP per chiarirsi le idee, per arricchire le proprie conoscenze, insomma, rafforzare le proprie opinioni o confutarle, eccetera. Quindi innanzitutto, come dire, è un po' una risorsa in sé, JAP. Poi certo è anche la nostra finestra un po' sul mondo, il nostro house organ. Noi parliamo attraverso JAP principalmente, questo è vero. E quindi sì, credo anche che piano piano molta gente abbia imparato a seguirci attraverso il sito. Però ecco, non bisogna credere che gli utenti della rete e soprattutto di certi blog, ecco, coincidano con il bacino di lettori. I lettori cartacei sono anche molti altri, tanto è vero che poi, voglio dire, noi prediligiamo sempre anche l'uscita fisica, cioè muoverci, spostarci e andare a incontrare la gente di persona.